10. Chi è avanti? Carlo da questa. Ciao Carlo, ben sentito, da Emanuele da questa parte. Buonasera Manuel, da dove stai modulando? Lante Dolce, tu? Io, zona Luna e Sole, Sassari, Manuel. Ma è la prima volta che ti ascolto, eh? Io ho ripreso circa un annetto fa, perché prima ero tutto da un'altra parte della Sardegna e poi mi ero trasferito e avevo mollato tutto e ho ripreso un anno fa sulle 11 metri, insomma, la Citizen Band. Ah, capito. E ormai la frequenza è morta, non c'è più nessuno. Poca gente, qua sul 10, diciamo, la sera ci sentiamo intorno dalle 18 sino alle 20, non dico tutte le sere, ma quasi tutte le sere, ma saremo un gruppo di 5-6, qualcuno si sente la mattina, ma in effetti non siamo rimasti in tanti. Prima sì, era una bella frequenza, gli anni 80, 90, quindi lì sì, erano frequenze, adesso ormai tutto tramite computer e via dicendo, la radio ormai sono morte. Qualcosina c'è, io la utilizzo in banda laterale anche per fare qualche DX quando c'è la propagazione, diciamo sono in una buona zona, utilizzo un'antenna abbastanza prestante, diciamo, e mi consente così ogni tanto di collegare anche oltre oceano qualcosa, tipo da poco il Brasile, Stati Uniti, insomma tutte quelle zone lì, e anche l'Indonesia ho fatto, tutto il nord Europa, la Russia, insomma qualche piccola soddisfazione così in banda laterale e poi ogni tanto così qualche collegamento con chi vuole entrare sul canale 10. Beh dai, almeno c'è qualche soddisfazione nella busca. Sì, ma anche io, dai, io non so se tu quanti anni hai che modulato. Sei un po' bassino di radio, non so se sei distante dal mic, perché il segnale mi arriva a Santiago 9 qua, però la radio la sento un po' bassina, perché c'è il QRM un pochettino alto stasera. Vedo un po', mi ascolti meglio adesso? E adesso molto meglio. E devo essere un po' lontano dal microfono, dai. Io ti stavo dicendo, io ci parlo già, anche io, un 30 anni buoni. Non so se avete sentito Ginko, io modulavo come Ginko. Magari sì, io ero sempre in provincia di Sassari, ma in un altro comune, e diciamo qualche volta avevo collegato i punti, Giulio, come si chiama, Claudio Sparviero, qualcuno dei vecchi che ancora c'è, capito? Sì, qualcuno c'è ancora. Comunque lì a Luna e Sole come mi ascolta, avevo bene, dai. A parte che sto usando un attimino di macchina dentro casa, anzi. Per arrivare a Luna e Sole va fin troppo bene, dai, non mi posso lamentare. Sì, quasi abbastanza chiaro. Il segnale, te l'ho detto, Santiago 8 con qualche picco positivo, la radio un po' bassa, ma sicuramente anche se hai l'antenna un po', diciamo, un po' precaria. Sì, no, poi te l'ho detto, ce l'ho dentro casa e niente, dai, l'ho acceso così tanto per vedere qua in lontananza. Se si può dire, se riuscivo a trovare qualche amico. E ho capito io lo stesso, adesso stavo prendendo il caffè, io l'apparato in cucina e quindi ho acceso un attimino, ho detto vediamo se c'è qualcuno, ho dato qualche colpo di portante, ho visto che chiamavi un tore, ho detto allora è per quello che sono entrato, ho detto chi c'è. Va benissimo. Comunque mi ha fatto piacere, dai, sentirti. In caso è intanto loro accendono verso le 6:30, sul 10, verso quell'ora lì si faranno una mezz'ora, un'ora di chiacchierare. serata, purché non c'è più nessuno dopo le 7. E sì, ogni tanto entro anch'io a fare quattro chiacchiere, una mezz'oretta, ogni tanto un'oretta ce la dedico alle quattro chiacchiere quando è possibile, perché anche io a volte lavoro, ho i turni, quindi a volte non ci sono di pomeriggio e la mattina diciamo è più difficoltoso trovare qualcuno. Infatti la mattina qualche volta che sono a casa che accendo mi faccio qualche dix. Fai bene. Dove sia Luna e Sole? Ma se Luna e Sole è alta? Io sono praticamente tra via Luna e Sole e via degli Astronauti, capito? Sono presente dove c'è la pizzeria Gigi e Andrea in via degli Astronauti. Di fronte a loro c'è un parco, io sono là dietro, la mia dove abito io è via Dau, capito? Va bene. Ah, io sono qua nell'esame di, te l'ho detto, la Teroce. Rispetto a te sono in terra, ti ripeto, anche tanto che sta uscendo con l'antenna da toccare. Dolce è già una buona zona, è abbastanza aperta e quindi se tu avessi un'antenna magari sul tetto sicuramente arriveresti a fondo scala qua e con una radio anche migliore. Sì, ce l'avevo, parecchi anni fa ce l'avevo sul tetto e quindi qua ho cambiato zona e quindi non posso metterla, dai, non posso metterla. Io lo stesso, io vivo in condominio e sono salito sul tetto, mi ho sistemato tutto, non ho chiesto niente, ho messo l'antenna. Ma qua è un casino qua. No, mi piace a me a salire giù, magari c'è qualche cosa di perdita, sono io magari. Invece non voglio mettermi queste zanzare con nessuno, capito? Non mi diranno niente, però non mi va. Vabbè, quello dipende dalle possibilità, in effetti, se non ti va di disturbare più di tanto. No, adesso di buono c'è che non si paga più la tassa, l'hanno eliminata e quindi ormai è libera. Chi vuole si compra una radio o CB e può trasmettere tranquillamente da casa o dalla macchina, perché siano apparati omologati, capito? Non ci sono più autorizzazioni e concessioni da pagare. Sì, quello sì, intanto anche se erano a pagamento, c'era la licenza e tutto, andavano stesso, i pirati ci sono sempre. Sì, purtroppo sì, Manuel, diciamo che qualcuno c'è sempre stato e ci sarà, non è che, però va bene, dai, io praticamente questa è una passione che ho da ragazzino e l'avevo mollata, però ogni tanto, sai, la puntatina ce la fai alla radio e alla fine che mi sono sistemato qua e mi è venuto l'idea di piazzare l'antenna sul tetto e così ho fatto, senza chiedere nessuno, perché dove abito io diciamo è gente tranquilla, è molti anziani, io sono tra i più giovani, forse il più giovane tra i condomini, per cui molti fanno affidamento su di me per le varie problematiche, qualche problema improvviso, capito? Quindi ho le chiavi di tutto e quindi salgo, metto, ma non mi hanno mai detto, non mi hanno fatto mai questioni, capito? Sì, dai, da te magari sarà un tetto abbastanza tranquillo, ma qui il tetto è lamiera e quindi qua per salire su non c'è neanche la botola, devi salire su con la scala aerea e quindi non puoi neanche salirci sul tetto, capito? Sì, no, io praticamente c'è una finestra e praticamente devi camminare su un cordolo centrale, no, del tetto e poi salire sul piano di calpestio, perché ho un tetto abbastanza grande nel condominio, quindi si può salire tranquillamente. Anzi, sei stato fortunato. Io niente, io queste cose non le posso fare, pazienza. Mi era piaciuto rimettere l'antenna sul tetto, ma no, non va. Mi accontento così, dai, fare due chiacchiere qua, chi mi ascolta qua in zona, poi intanto vuole 10 minuti, un sì. Io me lo sono piazzato anche in macchina, uno piccolino. C'è una base magnetica e ho messo qualcosa per aiutarmi in macchina, perché sennò con pochi watt non riesci ad arrivare bene. Però in tutto Sassari, quando tipo ieri sera sono uscito, ero a Predanieda, parlavo tranquillamente con gente che era al centro oppure in zone più periferiche, tutta dall'altra parte eccetera. A volte andando a lavorare riesco a parlare da Sassari, io lavoro ad Alghero, sino ad Alghero riesco a parlare, capito? Con qualcosa in ascolto, sì, ti sentono tutto Sassari. Io lo stesso, anche io quando sto lavorando fuori, lo stesso sono un cugino e ce l'avevo dentro al furgone, pure ti faceva compagnia, poi era bello, dai. Adesso non ne vale più la pena, ti ripeto, ti fai quei 10 minuti, un quarto d'ora, poi non c'è più nessuno. E ogni tanto senti qualche camionista sul 5 o su qualche canale, se non il 5, il 6 o il 4, capito? E qualcosina si sente. E io da qua riesco a collegare in, diciamo, Muros, Ossi, Osilo, arrivo sino a Bonnannaro, Ozieri, anche se arrivo un po' basso, però soprattutto d'inverno, quando non c'è molta propagazione, non c'è QRM, se aggiungo qualche watt in più riesco a arrivare a coprire bene anche tutte quelle zone. Da qua faccio Castelsardo, Porto Torres, sino a Trinità d'Agulto arrivo. Perché tu c'è anche una buona zona, una zona tutto aperto, poi quelle zone lì, Castelsardo, vedi proprio sotto, si può dire. Esatto, io ho anche un'antenna abbastanza alta, capito? Sono in un palazzo di 6 piani, più c'ho praticamente 5 metri d'antenna su palo, e quindi è tutto aperto, una postazione buona la mia, dai, per la radio. No, comunque è una bella zona lì, paziente, io mi sacrifico così. Pazienza, quando sarà, se cambierò un domani, chi lo sa, se cambierò il zona, che posso mettere un'antenna, grazie a Dio, si vedrà. Adesso mi dovrei accontentare così. Magari se è la possibilità di mettertelo in macchina, anche ogni tanto qualche collegamento un po' così, come se oggi riesci comunque ad arrivare qua in queste zone, arrivi bene. Allora, tu sei un appunto grigia, c'hai tu? No, non ho un appunto, io ho una macchina grigia, ma non è un appunto. Perché è vero, ogni tanto un appunto grigia con la base magnetica, che però pensavo che eri tu. Negativo, non è l'appunto, io c'ho una Dacia. Ah, ok, dai. Vabbè, io rimango un attimo così, mi ha fatto piacere sentirti, dai. Casomai se ci sentiamo più tardi. Bene, se ogni tanto bussi su questi canali, già ti rispondo, Manuel, non ti preoccupare, va bene. Ci sentiamo alle prossime, grazie del QSO. Sì, grazie a te, dai, ciao, ci sentiamo. Brecco. Avanti che pista. faccio? Buonasera a tutti, Alfa 21 qui. Chi sei? Alfa 21, Riccardo. Ciao Riccardo, mi hai sentito per la primiera? Ciao Tony, altrettanto, c'è qualcun altro? Ho acceso adesso, non so se non ho sentito, non ci rimasto molto in ascolto. No, ce l'ho solo io, ho acceso, c'è ciò che entra qualcheduno. Ah, ho capito, quindi non c'è nessuno. No, per il momento no. Con me dopo fatta scelta? Boh, perché un po' a scuola, poi le vacanze, quest'estate, e boh, tra uscire e magari fare qualcos'altro, non si inizia più a scendere, oppure un paio, due, tre volte ho acceso, ma non c'era nessuno. Io sono sempre in ascolto, poi da accendo. Ma entro più tardi, adesso sì, 20:30, capito? Ho capito. Poi io sono detto, ho acceso due o tre volte, ho acceso il canale 10, 23, ma non c'è nessuno, non sentiva nessuno, sento tutti i giorni. Una volta ho sentito la propagazione e poi niente, non si va nulla. Ma qui c'è qualcuno che mi chiama basso basso, chi sei, Carlo? Non ho capito, chi sei? Ah, Claudio Muros, è un po' a livello QRM, ciao, mi hai sentito? Avanti, com'è? Com'è il nuovo nominativo che non mi ricordo più? L'hai sentito a Claudio Muros? Brecca. Registrato. Santiago 8 ti posso dare, la radio Claudio. Radio 2, che sia a livello QRM. Non è il tuo segnale comunque, io ci sono più forte. Avanti Brecchi. Buonasera a tutti, doppio room. Io l'ascolto, so che sento che parla, ma non capisco cosa dice. Stavo facendo massa infatti, Claudio, non è il suo segnale. Avanti l'altro, com'è? Falco 21, Aquila 21, Ricca, attenzione Riccardo. Sì, non ci sono, anche se Claudio e Franco, ho capito, no, non li sento, cioè sento solo il fondo, mi arriva poco il segnale, ma di radio zero. Comunque, come ti devo chiamare, ci puoi sapere? Riccardo, Alfa 21, sì. Io ti conosco per Riccardino, poi, e poi sei tranquillo che qua sei con amici e basta, nessuno rompe le palline contro di te. Fregard! Ciao, come va? Abbiamo cambiato anche voce, siamo diventati più grandi, siamo cresciuti. Addirittura, a me non sembra, non l'ho visto, che da un po' che non entro. E il padre deve mettere i piedi al manico perché è un po' più alto, adesso io l'ho visto da poco. Aspettaci di nuovo chi ha attaccato, segnale più alto, però la radio è bassa. Claudio da Muro, avanti. Esatto, non sapevo nome di, ci ho mettuto il segnale, ma la radio è massina, 3-2 ti posso dare. Ok, d'accordo Claudio, avanti già, l'hai sentito adesso? Eia, sì, l'ho sentito più forte adesso. Ma la radio non è bella, come l'hai detto tu è satura. Ciao, ma Riccardino, allora cosa ci racconti? Beh, già, niente, lì che mi ha detto, ripreso la scuola da ieri, il primo giorno, e niente, sto bene, mi ha detto che sta tenendo il primo trimestre. No, tutto ma sta andando bene, là. L'interessante è quello, studia, che poi ne ricaverai qualcosa, se no se uno non studia poi rimane lascia perdere. Comunque io adesso sono reduce da un'operazione, Riccardi, niente, mi sto riprendendo, là. Ho capito, quindi qualche cosa. Ho detto, poi come ho detto io abbiamo fatto le vacanze, ho fatto, cioè poi anche se tra uscire e fare altro mi sono iniziato a scendere, infatti è da un po' che non stavo entrando. La passione ti è passata un po'? Che cosa? Ti è passata la passione, ho detto. Ah no, dai, mi piace sempre un po' parlare, il problema è che qualche volta entro, ma voi state io che entro e sono entrato, cioè ho acceso tre volte, tre, quattro, ma non c'era nessuno. Più che altro è bello quando parli da lontano, facendo facendo con la propagazione, facevo con la propagazione a lunga distanza, però tra la scuola e tutto non sono riuscito ad entrare. Vabbè, comunque gli apparecchi non ti mancano, per cui quando vuoi entra, non c'è problema. Vabbè, quello sì, dai, no più la roba di prima, però qualcosa già ce l'ho sempre, dai. Vabbè. Qualcosa ti è rimasta, è interessante che c'è stato per parlare. Sì, quello sì. Ah, Tony, ci sei ancora? Sempre io ci sono. E a me mi fa molto piacere quando hai frequenza. Perché almeno una persona, di Chellino, come aveva chiamato, che oggi c'è Grandetto, Riccardino, che è il più giovane della frequenza, mi fa un immenso piacere. E voglio che rimani, non lo so. Stai tranquillo, ti difendiamo oggi, se qualcuno rompe le scatole, le pensiamo ai dita. Ho capito, no, già non c'è problema. Quando posso già entro sempre. E come sta Sergio? Ah, tutto bene, adesso mi sta uscendo al lavoro e niente, da un po' torno a casa, ma già sta bene. Infatti tra un po' come torna, andiamo insieme ai cavalli e poi basta. Sempre bene ti arrivo alla tua stazione, Riccardi. Che cosa? Se ti arrivo sempre bene alla tua stazione. Ah, qua già arrivano sempre bene tutti, sì, tu lo stesso alto, sopra le 9, anche Gianni. L'unica cosa è mi stesso è Claudio, lo stavo sentendo proprio basso basso, sia di segnale che di radio. Di radio prima lo sentivo proprio, prima mi ha cambiato, lo sentivo proprio basso basso. Adesso sì, sempre 9:10, la radio è migliorata. Adesso è perfetto, Radio 5 per passare bene, sono 10. A te Riccardi, adesso lo ascolti e poi rilancia per Gianni. Sì, buonasera Claudio, adesso già ti sento, già è migliorata molto la radio. No, da, fa piacere che sento tante più, un po' non ti sentivo. No, da, adesso sento bene. Passo a te Gianni. Via. Vieni avanti, fammelo sentire questo apparecchio, mi sembra un po' chiuso come radio però, forse ha bisogno di scaldare, io ti riscaldi anche tu. C'è freddo. Claudio! Ascolto bene. Comunque la KV23 esce benissimo, se va bene esce bene, non è il basso di radio, va molto bene come radio, anzi era sempre stata diciamo una delle radio che richiedevano di più, la KV23 ai vecchi tempi. Adesso tu hai attaccato sì. Thank you. Chiappa. Andò bene, no, così stai bene, sta uscendo bene, adesso va bene, perfetto. Niente, io mi sono fatto una bella coppera stamattina, Gianni. No, ho capito. E stamattina, spero poi sul dire, mi sono comprato una cosa bella che mi interessava. E cosa ti hai comprato? Che sono... che io voglio sapere. Un bel PC. Un PC ti hai preso? Cappa. E non ce l'avevi? No, l'avevo dato a mio figlio perché il mio era un po' vecchiotto, capito? Adesso sì che... anziché che ho un telefonino è detto direttamente... perché ho cambiato l'opzione, diciamo, della Vodafone. Prima pagavo 20 euro al mese, avevo tutto limitato. Poi mi sono trovato addirittura, ho fatto la ricarica 20 euro solamente il 7 dicembre, scadeva la promozione, e mi diceva che non di sotto potevo telefonare. Ho chiamato la Vodafone, cosa è successo? E ho aumentato di 2 euro a 2 euro. E chi mi ha dato l'ordine? No, assolutamente, mi dà, cambia, ho detto lo... questa promozione, oppure io me ne sono dato da successore. Allora mi hanno proposto questa che ho adesso, 9,90 che è meglio di 22 euro, e ho i minuti illimitati. Poi c'è un messaggio limitato che io messaggio le mando su WhatsApp, nel micrometro in mano, sta guardando una frase. E niente, e c'ho 100 giga è fisco, effetto, come perché mi sono preso il PC, la linea internet ce l'ho, quindi, capito? Ok, riprendi Riccardi. Ho capito, no, io prima lo stesso ero in Vodafone, ma vedevo che mi toglievano dei soldi, perché Vodafone si fa anche sotto il meglio, quindi per mettere tipo 20 euro di ricarica, a volte mi trovavo anche con meno 20 euro per rimettere 40, infatti da un po' sono passato a Livia, già che cos'hai? Anche io avevo Vodafone, il problema era lo stesso, caricavo per dire 20 euro, andavo a vedere subito dopo quando ci avevo, mi avevano già scalato 10 euro, ma stiamo scherzando. Ho preso e no, io mi sono messo l'Eca Mobile, va benissimo. Ah, ho capito, boh, non la conosco bene, perfetto. Io pago tipo, mi sembra 9 euro, 9-10 euro al mese e mi danno 100 giga e limitato, mi sembra qui, va bene, non me ne faccio molto che hanno la copertura quasi in tutta Europa. E così, prima avevo un'altra offerta da 5,99, però ti davano tipo, no, 4,99, 5,99, ti davano 30 giga, però poi tra usando internet magari un giorno o l'altro si scadevano subito, quindi ho fatto quasi quella da 10. Io 5,99 pago lo stesso, una volta carico 5, una volta carico 10, così compensa, capito? Ed è la stessa Vodafone, della Vodafone questa che c'ho io, Eca Mobile, e praticamente ha mollato la Vodafone, quel negozio che c'è in Via Italia di fronte al fornitore, ce l'ha presente in Via Italia in fondo, e praticamente ha mollato la Vodafone e ha preso la Eca Mobile al posto di Vodafone. Ah, ho capito, e più o meno ci ha preso quel negozio perché non ci passo molto lì, se mai rispetto con me quando vanno magari per l'interrato. Ho capito, no, allora già va bene, no, Vodafone mi ritrovo sempre con soldi in meno, ogni volta a ricaricare era un attimo, sono passato direttamente a Lidia, sempre con te. Sì, Vodafone sono ladri, ti rubano i soldi, una volta mi ha detto che se non caricavo non potevo fare chiamate, che avevo appena caricato, cavolo, mi hanno mangiato tutti i soldi. Ho dovuto caricare 5 euro per fare i messaggi, eccetera, eccetera. Sì, ma perché ti tolgono così, poi tipo, se era, mi ricordo quando avevo Vodafone, ti dicevano, se vuoi fare un'altra chiamata che avevi finito il credito, dovevi aggiungere ai soldi così subito. Cioè, non per farla subito dovevi pagare tipo, che ne so, 50 centesimi per fare una chiamata di 2 minuti. Infatti no, poi a parte che stanno sempre, mi mandano sempre messaggi, torna in voda, non mi interessa, mi mandano 8.000 euro. Anche a me li mandano, anche stamattina. Avanti. Ciao Anto, mi hai sentito? In compagnia di Riccardino, da Chiodo Arrugginito, da Muros e da Tonino Kawasaki. Avanti, Tonino mi sa che è al telefono. Ho finito, dietro. Riccardo, sì. Riccardino, senti Antonio. Oddio, mi senti, perché non solo gli altri, ma sentendo male, non si capisce niente, non è che mi state sovramodulando. Ciao Antonio, Riccardo, è entrato Antonio. Riccardino, senti Antonio, tu comunque arrivi più forte adesso, il segnale è l'aereo migliore. Antonio, ma se non capisce più niente, cioè, non è che il mio è il problema, cioè Gianni, che a te, o mi stai sovramodulando perché ti sento più male, non capisco cosa state dicendo. Ma tu riesci volontariamente a sovramodulato Antonio, perché non lo senti giustamente. No, quando parlo uno non lo sovramoduliamo, non c'è casino. Aspetta, ti rilancio Antonio, vedi se lo senti, e parla soltanto Antonio. Antonio, vai per Riccardino. Riccardino, hai sentito? Antonio, ti sento male, non si capisce niente, non lo so. Ma mi senti male pure a me? Riccardino. Cambia paese. Ma io? No, Riccardino. Riccardino? Ci sono me, aspetta, adesso ti faccio... Ti faccio vedere come sta arrivando. Dai. Stai facendo il tuo apparecchio che è fuori frequenza, io ci sto tutti bene. Io ti sento bene, nel senso, a tu. Anzi, meglio delle altre volte. Poi non sento ancora i dubbi a tu, Niente, comunque 448-2 chiamate, cioè la chiamata è chiusa, non minore, detto quella che sono in frequenza, sto parlando con gli amici, tutto qua. Ci sentiamo più tardi, va a fanculo. Hai capito già? Cosa, non ho capito? Che ero con lì a fregare al telefono, poi detto che è in frequenza con gli amici, quindi lasciami in pace. Ma sempre quella persona là? Egli, sempre lei è la diavoletta. Ciao, adesso già mi sento bene. Ti senti bene adesso? Adesso sì. Dai, ti rilancio Antonio, adesso lo senti. Antonio, vai per Riccardino. Spostato il 100 kHz. Spica, cosa avevi combinato? Ehi, adesso è grandito. Sì, in realtà, Riccardo, ho visto il video che mi hai mandato e non si capisce niente, come mai? Non lo so, vabbè, adesso già si sente bene, non è un problema. Si è spostato di frequenza la ricezione, ci vuole molto a capire. Gianni. Ehi, avanti. Buonasera, buonasera anche a te. E chi è? Ah, mi pare... Forse Adriano. Ehi. Ciao, questo è Tamburino, cosa fa? Mister Tavolino o Tamburino? Dai, comunque ci abbiamo sentito, ti ascolto, meglio così, dai. Ciao Gianni, ciao l'altra vittoria, che siamo volta. E tu adesso a Antonio lo dovresti ascoltare bene, a tu l'hai sentito a Tamburino? Sempre quella zona tua, più o meno, un po' più giù. E l'antenna è dentro casa. Già, l'hai riconosciuto? Mi sembra Dovigliusso. Bravo. Ciao Emanuele. Ciao già, ben sentito. Ciao Giulio, Momolo. Lo sento anche a lui, piccolino. Comunque già lo tiro fuori, dai. Riprendi tutto lì. Non so se Riccardino ti ascolta. Ricca, lo senti Emanuele? Lo saluto Emanuele, lo sento basso. Lo sento basso, non capisco molto. Sì, perché sta usando un'antenna in cena dentro casa, capito? Perché nel palazzone non può mettere l'antenna, perché è fatto in un modo un po' strano, quindi. Ho capito, no, lo sento basso, però pensavo peggio per sta usando un'antenna. Un'antenna lo puoi anche di macchina, dentro casa, anche troppo, sta uscendo, dai. Va tutto bene, vediamo un attimino che c'è Claudio, ha ripreso. Claudio, chiudo il gito, GC. già ti sento bene, meglio. Vabbè, conta che sto usando un baracchino così, un SDE più il microfono suo originale, il palmare, quindi da, per quello che sto usando già va bene. Claro, ti volevo chiedere in generale, ieri il vento com'è stato lì, Sassari o Muros? Perché qua ha spazzato un bel, c'erano raffiche di vento. Anche qua Riccardici, raffiche allucinanti, infatti ero di mezzo. Il vento a me l'antenna mia non mi ha fatto niente perché sono sotto il letto. Ma come non ci siamo portati la gabbisciuli? No, a parte gli scherzi, questi venti sono da temere, perché sono a raffiche. Vabbè, tutti muti. Torino, avanti scendi, cosa si vede? Avanti, riprendi il bambolino. Quindi cosa vuoi fare sul tetto, la vuoi mettere? Dai. Scusate che, aspetta qua, un attimino, sto provando a parecchio, aspetta. Sì, Claudio, riferisco a quello che dici poco fa. Manuele 5, non lo ascolti neanche Antonio perché stanno usando un antenino, tutto qua, il resto già ascolti bene. Hai capito Claudio? Scusate se vi ho rubato il microfono, ma sono di nuovo a stare